10 per una prova radio? Avanti, avanti. Ciao Fabrizio da questa parte. Sera Fabrizio, Carlo da questa. Sono Alta di Sassari. Qua mi arrivi a bomboletta. Ok. Dai, mi devi dire come sto uscendo questa radio, che ho terminato di modificarla. Volevo vedere un attimino come ti sembrava il tutto nel complesso. Allora, la radio è chiara nonostante l'eco, l'effetto eco, però è molto chiaro. Il segnale è al massimo 9+30. Ascolta, ho diminuito un po' la camera eco, come ti sembra che vada meglio? Fatto, adesso ancora più chiaro, però la voce è bella pulita. Perfetto, un Alan 48 che ho terminato di modificare. Ascolta, adesso gli do un po' più di potenza. Aspetta, abbasso un attimino. Fammi leggere. Regolazione qua. Regolazione. Ascolta, abbasso un po'. E adesso gli do più potenza. È cambiato qualcosa oppure distorce la voce? Esatto, va in distorsione la voce. Forse perché c'è troppo vicino. Ti sembra che vada in distorsione? Aspetta, se io abbasso un po'. Guarda, adesso abbasso appunto la potenza, come ti sembra? Era in distorsione, prima eri chiarissimo invece. Vabbè. Così sicuramente sono chiaro, dai, bisogna provare a lunga distanza attaccando il finale. Esatto, così è di nuovo come l'inizio, molto chiaro. Va bene, dai, ti ringrazio momentaneamente e proseguo. Devo fare l'ultimo ritocco e poi provo un po' a lunga distanza come va questo apparecchio. Grazie mille Fabrizio da questa parte, ti ringrazio, ciao Carlo. Ok Fabrizio, se hai bisogno anche più tardi, se sono in ascolto volentieri. Ti ringrazio, ciao, arrivederci e buon sentito. E alle prossime. Ciao Fabrizio, alle prossime. Però siamo, dimmi se distorce. Radio? Sono morto io? O sei morto tu? Fabri. Ma non sto uscendo. Io sono rimasto nel canale 40, sei sparito. Che perché 40? Sì, a 27.405 eri. Mi ero spostato allora. E adesso a che frequenza sono? Sono sul canale 10, sì. 10, adesso sei sul 10. Non è che quando aumento la potenza, guarda che aumento la potenza, cosa succede allora? Non vorrei che stia succedendo qualche altro casino, guarda Adesso aumento la potenza, aspetta. Non ti capisco più quando metti la potenza, boh, sembra che scesci fuori frequenza. Quindi aumentando la potenza distorce, vero? Non ti capisco più, proprio sembra che sei fuori frequenza. E perché? È un linearetto interno, è strano. Fabri, questo tu lo sai. Quindi quando gli do, però gli do potenza, cosa fa? Come risulta? Tutto distorto? Ehi, sembra come che c'è fuori frequenza. No, io non ti capisco, sembra che sembri fuori frequenza. Eia. Questo, allora non lo so il motivo, questo è quel lineare, fanno, ha preso fin tutto quanto, bisogna rimettere mano, perché non volevano mettere mano alla parte finale, già ce l'ho il finale per modificarla, ma non volevo modificarla, volevo avere la doppia potenza. E allora faccio così, vediamo un po' strano, però è strano, non riesco a capire il motivo. No, così è una canonata, così è una bomba. Però se aumenti molto io non ti capisco, perlomeno buco, non che non valentizzi la radio. No, ci segnerete, io sulla parte finale non faccio altro che commutare e dare più potenza a un finalino. Però non è niente di particolare, cioè non ho toccato lo stadio finale della radio, ce l'ho il finale, se non, alla fine facevo prima sostituire il finale e rifare le correnti di Biace e via, facevo prima e ci ho dovuto fare questa modifica più carina, però c'avevo questo lineare interno della ZG che è fatto appositamente per questo baracchino, però per questo, per questi baracchini qua, però secondo me non sta andando. Ma cos'è? Un B150 cos'è? Piccolino? No, è proprio per l'interno, un KG40, non mi ricordo come lo chiamano, è proprio fatto apposta per metterlo dentro, da una 20-25 watt. Strano però che quindi entra lì praticamente bisogna ragionare, non lo so, adesso così non mi viene niente in mente perché sta distorcendo. Così è una canonata, così c'hai che modulazione a 9:20 a 9:30, la radio è bellissima, bella chiara, forte, non c'è problema, però quando aumenti va in distorsione. Sì, vuol dire che quel lineare non va bene, non va bene, aspetta che mi dispiace molto, mi dispiace molto, mi inventerò qualcosa. Prima di fare lavori, aspetta, senta Roberto, chiedi, parla anche con lui, magari è la mia radio che va in tilt, ho tolto anche l'NB di solito, perché questa radio, lo sai, quando c'è l'NB inserito va in distorsione, soprattutto nel canale 45 con l'eco eccetera, l'ho tolto e non cambia niente assolutamente, mentre invece se lo usi normale anche con l'NB non va in distorsione, la radio è bellissima. No, credo che sia proprio un problema di finalino. Io l'ho avuta modificata, però l'avevo presa la Gigi Vulcano, era già così, non ce n'era lineare, c'era solo la potenza sino a 30 watt, proprio la LAN 48 è regolabile, la tenevo sempre intorno ai 5 watt perché alimentavo un lineare, un B300, però internamente lineare non ne ho mai avuto, tu l'hai messo dentro quindi quello, e sino a che quanti watt arriva? Ma nemmeno moltissimi, infatti dovrebbe dare di più, però non sta dando tutti i watt che deve dare, ma per te è quello, non è quello, magari va bene, io non dovrei guardarmi, è proprio il... sta distorcendo, non deve distorcere, bisogna capire il motivo, no, così adesso non mi viene niente, ma adesso vediamo cosa fa, anzi adesso devo carare questo smitter, perché non mi piace per niente, aspetta, se c'è la radio, aspetta che cerco un attimino se trovo per carare lo smitter, aspetta un attimino. Sono qua Fabri. Ben trovati. Ciao Claudio, ciao Fabri. Oi, binario. C'è un QRM a 1000, iniziamo già a attaccare le pompe di calore qua. Mi do mattene, mi do. Agganciato, sì. Eia, ho perso qualcosa? No, anzi, sto usando quella che ti ho fatto avere l'altro giorno e sì, perfetto, 9.5 sera. Perché l'altro giorno l'ho dovuto scendere perché si era di nuovo collassata l'antenna, dai. Ogni tanto si collassano gli elementi della canna e quindi devo scenderla e ripristinare la lunghezza. Vorrebbe incollata, oppure riempita di schiuma. Però intanto già un attimo, tipo ombrellone, me lo tolgo e la rimetto in un attimo. E quindi anch'io ho cambiato qualcosa. Comunque anche tu mi sembri più o meno uguale, ecco. Sai che c'è un sacco di QRM, 6, 7. Io sto andando con questo perfetto, carato la perfezione. E una quarantina di watt, 20 più 20 modulati, dai. Oh no, è buono, ti ascolto bene. I picchi sono positivi, quindi va bene. La modulazione è buona, Sì, sì, è sempre la solita. Bene, bene. E allora già funziona bene anche quello. Mi dispiace che non mantiene le memorie. Mi dispiace, non mantiene le memorie. Evidentemente è rimasto troppo fermo e la batteria lì che si è andata a fare in quel paese, ma quella è una fesseria, perché lo sa fare già. È una cazzata, io già non ne do. vediamo un po' Fabrizio si è attirato lo smitter. Fabrizio, no, sto cercando, aspetta, fra un po' entro e vedo un attimino, aspetta. Ehi, ehi, scappa dell'orgero. E allora fra, lavorato? Sì, stamattina ho lavorato, stamattina. Sì, una cavolata, cambiare una batteria tampone, dai, tipo quella che c'è dentro il computer. Una pensieria, saranno due punti di saldatura. Due a toglierla e due a rimetterla. Credo che sia saldata, non lo so. Magari a infilare, ma non credo. Mi ricordo una radio che ho avuto era ad infilare, proprio come si fa negli orologi, no? C'era la sua sede e si infilava chiaramente qua, mettendola giusta, positiva e negativa. Però su questa radio penso che sia a saldare, che poi non so neanche lo vedo, non manco toccare. Vabbè, comunque, piace il sistema. Cappa del Roger, vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare sul canale 10. Non brindava, non c'è neanche Roberto Gianfranco, non c'è nessuno, però si era accesa la radio, perché era per almeno 6-7 mesi ferma quello che ti ho fatto vedere, forse anche di più, 6-7 mesi ferma, perfetta, è veramente anche in ottimo stato, solo che non mantiene le memorie, l'avevo tutta memorizzata, stamattina sono andato a accenderla, non c'erano memorie, si resetta da sola, capito? Ma te l'ha fatta da poco o da quando l'hai presa? No, invece era a posto, era ferma, nel senso che non era usata, capito? Era dentro l'armadio, però quando era in uso le memorie c'erano, evidentemente la batteria a tampone si è scaricata. Non le usi, si rovinano le batterie, anzi ti vuoi farlo subito perché potrebbe magari scoppiare la batteria e magari potrebbe fuoriuscire del liquido che ti andrebbe a rovinare magari qualcosa di circuito stampato. Una volta che scarica, che non prende più carica, conviene cambiarla subito, credo, Sì, infatti. Aspetta che mi sta chiamando Anna fra un secondo solo. Capa, saluta a tutti. Sì, avanti. Chi è? Eccomi fra, scusa. No, ma figurati. Qualcuno ogni tanto bussa ma non vuole entrare. Beh, normale, fanno sempre così. A volte fischiano anche, sembra che abbiamo perso i cani. Non lo so, vabbè, si arrangiano. No, ho aperto a Petrito che doveva uscire, lo sai dove. È uscito a fare la piscia, no, gli ho aperto la porta, gli ho acceso la luce di fuori del giardino, se no al buio non fa niente, non sai che al buio non fa niente l'amico. A te mi rugio. Allora, sempre, ma anche quando era carbonato la stessa cosa, dovevo andare, anziché portarlo fuori nel giardino comunale, no? Che era tutto al buio, non ci voleva andare, stavo nel giardino dentro perché c'era la luce, capito? Tutto illuminato. Quindi adesso qui giù hanno comprato un appartamento da una signora un po' grande, penso che sia 65-70 anni, dai. E c'è un cagnolino mezza taglia, no? Ah, sta sempre abbagliando, poi appena invece te vicini ci ha leccato tutte le mani, però insomma speriamo che non disturbi. No, ma te l'hai comprato tu? No, una signora che ha comprato giù l'appartamento, no? La tipa che c'era prima ha venduto e ha comprato un'altra persona. E c'è una persona anziana con un cagnolino mezza taglia, dai. E un po' abbaia. Quando lo lascia in terrazzino, quando passa la gente lui abbaia. Terrazzino si lascia il cane. Cioè, se vediamo un cane lo lascia il terrazzino. Ma per carità. È vietatissimo, per il condominio è vietatissimo, lo tieni dentro o se no non i pigli, non si può lasciare, capito? Perché abbaiano, fanno casino. Io mi ricordo a Porto Torres c'era uno di fronte a casa di mamma, ce l'aveva nel terrazzino, questo cane usciva pochissimo e faceva la pipì nel terrazzino e colava quella di sotto, casina di disutilia, mamma di Durchi, alla fine ho chiamato i vigili urbani e li hanno fatto togliere. Sì, cavolo, che va bene. No, questa già lo porta a fare i bisogni, questo già la. E che ogni tanto gli apre la porta e lo fa uscire in terrazzo. Poi non so dove dorme questo cane, ho visto che c'è una cuccia in terrazzo, gli ha messo una cuccetta, e poi di notte magari rimane dentro casa. Ma qui già sono muri grossi, non si sente nulla, una volta che chiudo il portone non si sente nulla. Però si apre il portone e si sente nella tromba delle scale, là. Beh, normale, normale, normale, è così, purtroppo è così. Cane, guarda, te l'ho già detto, io sono rinato col cane, sono rinato io, vabbè, ma anche il cane, perché c'è lo spazio, corre, sta sdraiato al sole durante il giorno, non sta dentro, cioè il cane ha bisogno dello spazio suo, capito? Io i primi giorni che ero qua, prima di ambientarci, ci ha messo almeno 10-15 giorni. Devo mettere il guinzaglio e portarlo fuori dal cancello, come facevo sempre, sulla passeggiatina. Ho iniziato piano piano a non portarlo. Dicevo, vai, no, vai, vai, vai, esci, vai, dai, fa la pipì, esci, esci, piano piano. E non usava, iniziato a fare la pipì, a fare la pipì. Però dovevo continuare a portarlo fuori per fare gli altri bisogni. E invece poi ho iniziato a farla anche, anche dentro, capito? Chiaramente ogni volta che la fa devi pulire, devi raccogliere, sono sempre un lavoro, ecco. Non vedo il cane, è sempre un lavoro fra. Ehi, comunque secondo me il cane ne ha guadagnato, perché è più tranquillo adesso. Una volta che si è ambientato, che ha trovato i suoi punti di riferimento, sicuramente sta meglio lì. E poi anche tu non stai a salire e a scendere, e ce l'hai tutto più a portata di mano, secondo me, dai. Sì, alla grande, fra, alla grande. Ce l'hai visto, quindi sto bene, no, non manca niente, è la verità, la verità. Ancora, vabbè, io sono arrivato ad aprile, sono bloccato ad aprile, quindi c'era ancora un po' di freddo, adesso vediamo l'inverno come passiamo. Comunque, bazzinati di acqua li abbiamo già preso, ho visto che il giardino tiene bene, tutto tiene bene, quindi non penso ci siano problemi invernali, il caldo c'è. Quindi no, non c'è problema, dai. Ah, ci vuole se ti hai sistemato con i tubi, i pluviali, se l'acqua non ha ostacoli, così dice, va via tranquillamente, non ci sono problemi. Beh, quell'acqua forte che ha fatto, ho visto la notte, mi sono affacciato dalla finestra e ho visto che già ce n'era qua in giardino, la mattina non c'era niente, proprio assorbe molto molto bene. È che cresce in fretta al prato, fra, hai visto l'ingresso del cancello, e quella l'ho tagliata, oggi cos'è? Venerdì, lunedì l'ho tagliata, lunedì l'ho passato casa erba, lunedì, ed è tornata, perché c'è molta umidità la notte, capito? E quindi cresce un bell'erba. Ah, quindi c'è anche il tagliaerba, c'hai? Sì, c'ho il rasaerba, piccolino, con un motore, dai, piccolino. E invece sfogliatore, che quello l'uso per l'erba alta, fuori, insomma. Inizialmente l'avevo preso quando sono arrivato, cazzo, c'era un metro d'erba, perché non ci veniva nessuno, quindi era un po'. Poi quando ho sistemato tutto, adesso invece sfogliatore lo uso solo per fare la parte esterna, fra, capito? E anche noi lo usiamo per fare gli angoli dove non prende, diciamo, dove la erba, ma lo usiamo anche nell'erba che, come dici tu, quella erba di campagna. Una volta che la tagli, sembra un prato inglese, sembra. Sì, non hai visto l'ingresso come? No, quella, quando la raggi è proprio un prato inglese, mentre invece dall'altra parte lì non avevo seminato per mettere il prato, capito? Perché lui mi serve così, perché quest'estate metto quella piscina che ti ho letto. Sì, poi bene mille, quello è voi il figlio della vita. Noi avevamo ridurre da sopra il terrazzino di vino. No, ho capito, mica mi sta ammazzando questa pompa di calore. Ho detto, poi facciamo i tuffi fra da sopra il terrazzino di Nino. Si è messo un trampolino, un tavolone. E così mi ha detto lui, siamo che ci vendi i tuffi, un bellissimo, cosa vuoi ti richiedere? Sta attento a pigliare un muretto. E Anna, già rientrata, sì? Sì, siamo usciti un attimo a fare un ricompere qua, siamo rientrati adesso. E te ci vi accendo un attimo a far scaldare un po' gli animaletti qua. E io anch'io ho acceso tutte e due accese. No, tutte e tre veramente, dai. Tutte e tre accese, perché quelle devono scaldare, anche se non sono come le 440, non ce n'è problema, però le tengo accese giusto per scaldare, usando questa. Ho sentito Fabrizio, stava facendo le prove, sono entrato, se no ero in quel ric, ho visto che non c'era nessuno. Sì, quando ho acceso stava provando, ma anche qua, quando agganciava, andava in tipo saturazione, proprio incomprensibile la radio, e il segnale non aumentava niente, anzi addirittura forse peggiorava pure, quindi sicuramente non sta funzionando il finale dell'inerietto. Sì, mi sembra che glielo mandi in corto, c'è qualcosa che non va, infatti il segnale normale 9.20 con picchia 9.30, allucinante quella radio, fortissima, mentre invece poi quando sollevo la potenza il segnale rimane uguale, però si mangia tutto completamente, sembra fuori frequenza. Vabbè, lui già sa dove mettere le mani, non c'è un problema. Lo eliminiamo. Ci mancherebbe altro. Lo elimini Fabri, lo lasci senza niente. Ehi, aspetta, perché non c'è potenza? Aspetta, che cosa succede? Qui no, adesso no, lo elimino, rimetto tutto a posto e lavoro sullo stadio finale. Avevo comprato un MOSFET per montare al posto di questo, però volevo fare le due potenze, allora quello lì lo uso per eliminare il bip, quell'interruttore, rimetto tutto a posto e poi con calma metto un MOSFET al posto di quel cavolo di finale, perché il 1969 non si trova più. Allora metto un MOSFET e lo porto lo stesso a 12-15 watt, lo stesso lo porto su. Quello che avevo io l'avevo comprato, vabbè, fatto in continente, era questi camionisti che modificano queste cose, i soliti che tu ben conosci. E il mio aveva la potenza regolabile, arrivava fino a 30 watt, 25, 20, 28 watt. Con i picchi di modulazione arrivava a 30. Penso si possa mettere anche così, proprio la LAN 48, con doppio modulatore. E dipende da che MOSFET metti, io ho uno piccolino, non è che mi interessa proprio di tanto. Allora metto così la potenza. Adesso ti lascio che devo anche uscire e andare a prendere mia moglie, però se ce la faccio smonto questo lineare e riporto tutto normale, dai, ci sentiamo dopo. Sì, Fabri, siamo qua quando vuoi. Un abbraccio, vai Fa. Sei capa, ciao Fabri. A più tardi se coincide. Sì. Ascolta, quando metti il filtro tu, quello NB, mangia un po' di radio? NB? Sì, ho un filtro NB ANL. Beh, allora io la NL ce l'ho sul Galaxy e funziona molto molto bene, quando sono rumori atmosferici eccetera inserisco quello e non si sente più niente. L'NB soprattutto del 430 e anche dello Yaesu, se lo tieni inserito, per esempio stai usando una radio con l'eco di quelle forti come stavo usando, lo devo disinserire, perché se no mi manda la radio in distorsione, capito? Però già agisce, quando ad esempio passano le moto, queste cose, rumori atmosferici, rumori di cose così, lo tengo inserito e già funziona, perché anche tu ce l'hai. Sì, però quando lo inserisco il filtro, quello per le scariche, sembra che mangi un po' di radio anche, cioè non è un'impressione, proprio manca leggermente un po' di radio. Non so se sia normale, infatti lo stavo chiedendo a te. Ah, non lo so, io ho la NL sul Galaxy Saturn Echo e funziona benissimo, mi cambia la tonalità, devi dire, non mangia la radio, mi cambia un po' la tonalità, sì, la tonalità un po' la cambia, la fa un po' più, con tonalità più bassa, più medio-bassa, se lo disinserisci la fa con tonalità più acuta, quello lì stai dicendo. Sì, sì, meno squillante, più tipo vatata, e di conseguenza magari per le mie orecchie, magari su frequenze che io sento meno, e sembra che mi abbassi un po' di radio. Sì, cambia, è più squillante quando lo disinserisco. Sì, beh, quello lì sì, no, che mangi la radio no, che però sia un po' più meno squillante sì, perché la chiude un pochino, capito, attenuando la rumorosità, sì, la cambia la tonalità della radio, però non succede niente, già va bene lo stesso, non è un difetto, dai, anzi, già va bene. Quindi di nuovo attaccata la pompa, sì. Sì, no, l'importante è che sia una cosa normale, dai. Eia, cappa di Roggero. Mi dà una frutta, bisogna che l'allontani da lì l'antenna, è troppo attaccata a quel motore. Ce l'ho a pochi centimetri. Ah, quel motore del coso, del condizionatore. E allora, è quello, perché ho provato anche, quando sento un rumore apro la finestra ed è acceso, quando sparisce il rumore è spento, dai, diciamo, aveva raggiunto la temperatura ideale e si è spento, quindi non sta girando. Ti ho capito, ma io non agisco. semplice problema, fra. Già è tutto a posto. Il mio vicino non ne ha di condizionatore, non c'ha niente. Abbiamo l'impianto tutti e due uguale a caldaia e basta. E basta, anche perché d'estate c'è un fresco. Sei venuto tu d'estate qua, no? Sì, l'aria ti manca lì. Caspita. No, vabbè, questo perché è proprio attaccato. Se fosse stato a 2-3 metri io penso che non avrebbe raccolto tutte quelle scariche, dai. Questo è proprio, è troppo vicino, proprio la bobina dell'antenna è proprio attaccata alla carcassa, diciamo, vicino della pompa di calore. Purtroppo è così. Io ce l'ho attaccata nel ferro da stendere e lì c'ha a destra della finestra sua, ha messo la pompa. Allora è per quello che si crea quei problemi, quelle pompe di calore, ma guarda nel bocco di gallina. Lui è anche un po' vecchiotta, capito? Sicuramente le nuove, io l'ho cambiata da poco, ho messo quella inverter, probabile che disturbino anche meno, che siano più schermate. Sicuramente fa meno rumore, l'altra sentivo anche dentro, i miei muri sono grossi, eppure sentivo il rumore della rotazione, wow wow wow. Questa neanche si sente, nulla proprio. Comuto l'altra radio mi dice se va bene come ho regolato il microfono, perché sto usando l'altro microfono, non è il 60 l'altro, però non so se la regolazione di Michelin è giusta. Sai che comuto? Soltanto che, capito, ti porti appresso il rumore della pompa, quando smette magari ti posso dare un controllo come si deve, ma finché questa cosa gira sento le scariche, anche col filtro inserito. No, ma giusto così per capire se è regolata bene, beh, se la tonalità è buona, niente di che, a futtidini. Aspetta che comuto. Brecco. Ecco, avanti, vabbè, così vai, ti ascolta meglio lui di me. Ciao Franco e ciao Claudio, ben sentiti tutti e due. Era un po' proprio io che sentite Franco, detto, non sei più sentito Franco, oggi è l'occasione. Beh, Franco, tutto a posto. Sì, grazie a Dio, sì. Vediamo se stai entrando per il controllo. Sì, guarda un attimino se va bene come tonalità microfonica, buona. È leggermente più alta come frequenza, dai, come tonalità, c'ha più alti, però ti ascolto meglio io con questa. Oh, più, vabbè, questa è un'altra radio, il microfono spinge di più. Ciao, vabbè, buonasera, ben ascoltato. Ehi, che radio è questa qua? Questo è il 430 numero 2. Con che microfono? Con l'MB+5. Boh, forse spinge un po' di più, però è più rimbombante, l'altra è molto meglio qua. Beh, l'altra sicuramente sì, vabbè, possiamo abbassarla, però guarda. Allora, guarda così che te l'ho abbassata di un'attacca. No, no, a livello già va bene microfonico, però si sente un po' più rimbombante come. No, a livello va bene, sei giusto, non sei né troppo basso né troppo alto. Però l'altra è più piena la modulazione, più ricca. Ah, vabbè, microfono già lo sai, non è più 5 così. Però è affidabilissima, dai, va bene, si può usare. Assolutamente, bella, chiara, pulita, niente da dire. Però l'altra è più naturale come modulazione. Spinge di meno, spinge molto, molto meno, 60 con l'altra radio. Questo fa un po' maledizione. Vabbè, ricomuto l'altra radio, era giusto per fare una prova, ok? No, comunque va benissimo, adesso che è scomparso, diciamo, il disturbo va meglio, però a parità, diciamo, di microfono con il disturbo sottofondo, con questa riuscivi a passare meglio, forse c'è qualche picco di modulazione superiore, non lo so, ti ascoltavo meglio. Avanti Robè, e tu tutto bene? Black Rapidivella. Avanti Rapidivella, sì, tutto bene, grazie a Dio, a parte quella situazione familiare che c'è stata qualche giorno fa, però bisogna andare avanti. Buonissimo, ora allora, questa parte per il vero nostro cavallero, avanti, io chi parlo? Buonasera cavallero. Ciao Gabella, cavallero, cavalletto, Pedivella, Caldarello, dai. Franco, Roberto e compagnia anche di Claudio di fuori controllo. Avete sentito Gargamella per caso? Claudio Gargamella. Sì, sono qua, ciao Catare. Ciao, tappare. Dove c'è la Marina? Via. Yes. Ciao Roberto, ciao Franco e ciao Claudio. Sì, sono qua. Quante terre vibra, Luca, se ci avete le antenne? Dove è quella di Luca? Non riesco a capire come faccio a arrivare così forte. Anche a Carbonati mi arrivava così più o meno, e qua mi arriva addirittura un po' più forte. Un po' più forte. Se la mette sul tetto con l'antenna, l'antenna manta va arrivi. No, anche qua arriva benissimo, Luca, arrivi benissimo qua. Sì, anche voi, là, tutti qua, tu Roberto e Claudio, avete quasi, cioè vabbè, tu sei più forte fra di tutti, sei più vicino, però più o meno siamo tutti lì, là, segnale ultimo, radio ultima, perfetto. Claudio, Nara. Luca ti arriva più forte di Franco a te. Sì, all'incirca sì, più o meno, dai, ma appena proprio. No, Franco qua arriva a 9.25, c'è un segnalone, Luca è 9.10, o forse a 9.15 con i picchi arriva, ma Franco è molto molto più forte. Da casa sua Luca ammazza tutti, l'ho sempre detto, però forse verso di me è più sacrificato rispetto a te, però strano che Luca è più lontano di Franco, non è così? Lui non c'è la veloce Luca. Sì, la notte dopo. C'è una breccia, l'antenna su, vabbè, anche Franco non è, insomma, condizioni meglio delle mie, siamo più o meno lì, dai, va bene. Aspetta, però io, Luca è liscio, io no, Ah, ti stai aiutando tu, allora è quello il discorso. Ti ricordo quello. Prova a uscire liscio, a vedere. Quindi, così sono quattro, che questo l'ho abbassato per pilotare l'Alfa Lima, dai. Sì, sei sempre un peluttino più alto di Luca, 9.15 tu sei, Luca 9.10 con i picchi a 9.15, tu sei 9.15. Ma tieni conto che Luca da qua lo vedo, cioè molto più vicino rispetto a Franco, capito? Luca infatti è 9.5 e Franco è 9, modulato, insomma un po' più alto, ma... Va bene, dai. No, ottimi segnali, dai. Arrivate tutti bene, tu sei sempre 9.30, quindi già va bene. Sì, a voi la quantità ce n'è per i pulci. Cioè, lasciamo un attimo di bianco se c'è qualcuno che vuole entrare. Avanti sul 10 che vuole entrare, se lo riprendi tu, Franco. Cazzo, ogni tanto poco fa qualcuno bussava ma non è entrato. Dai, comunque io vi voglio salutare che qua mi chiamano per preparare qualcosa. Vi abbraccio tutti e ci sentiamo alle prossime, dai, se coincide. Ok, ciao Roberto, ciao Claudio e ciao Luca. Avanti Luca. Ciao, sono importante, metà. Anche io ne approfitto che sto per uscire tanto, anzi sto già cenato, ho fame e io mangio presto. Poi se mi viene fame mangerò qualcosa fuori, se mi viene fame, altrimenti niente. Ciao Claudio, ciao Roberto, buona serata, domani, ciao. Comunque a giorni entra Salvini, eh. Ciao Luca, buon proseguo, idem a Franco, fatti sentire più spesso Franco, che da un po'. Buon tutto, ciao ciao, c'è qualcuno che forse vuole entrare, stava mantenendo portante, avanti che vuole entrare. Ciao Fra, salutami Anna e a Carlo, ci sentiamo, ciao Luca, alle prossimine, vai. Stiamo bene. Ehi, mi ha chiamato anche a me, invece c'avevo qualche baracchino a darle, ma io non mangio baracchini. Mangio radio bisceglie dei baracchini. Kappa. Avanti Robè. Ciao. Ciao Luca, ma quando stava parlando Franco c'era un colpo importante sotto, ed è sempre la solita, 9.20 abbondante. Avanti che vuole entrare, Luca, e becca che mi dici, cacchio, ho perso il libretto della macchina, vaffanculo. E come hai fatto a prendere il libretto della macchina? Dove è il libretto? Dove lo tieni perché il libretto della macchina? Non lo tieni in macchina. E certo, è quella la cosa strana, io non l'ho mai tolto, non mi hanno mai fermato, diciamo, negli ultimi anni che mi ricordo io non mi hanno mai fermato. Ti chiedono, forse l'ultima volta mi hanno chiesto la patente, qualche anno fa, due anni fa ho fatto la revisione, l'ultima volta che l'ho preso in mano, due anni fa, ho fatto la revisione. E ok, ho fatto la revisione, perché sono andato a cambiarmi le gomme, mi ho messo quattro gomme, come si chiama? Ha detto, vediamo se sono in V o in H le gomme che c'hai sotto. Ha detto, mi guarda nel libretto, sono andato a prendere il libretto, perché io ho un astuccio dove c'è scritto libretto, foglio complementare, assicurazione, bulli, tutto ordinato, proprio perfetto. Ma l'ha tirato, ha detto, Biudu, dove c'è il libretto? Come mai? Impossibile, ha detto, non c'è spiegazione perché io sono ordinatissimo. Ha detto, domani speriamo riesco a farmelo fare, perché se ti ferma la polizia ti mettono 40 euro di multa se sei senza libretto. Allora, mi scade la revisione il 31 di ottobre, però mi hanno detto, ho parlato con gli amici della polizia, hanno detto no, sono state prorogate tutte le operazioni al 31 di 15 di dicembre, fino al 31 dicembre, per cui vai, però se ti trovano senza libretto e non hai la denuncia, ti mettono 40 euro di multa, se paghi entro 5 giorni 32 euro, ma non li voglio buttare, infatti la mattina tramite mia cugina che lavora lì, ho detto vediamo se si può fare qualcosa che sono chiusi, se no devo andare a qualche paese o provare i carabinieri, ma i carabinieri per sempre un mondo in Chibi, vediamo bene. Ah, è già mondo, vai a fare la denuncia di smarrimento e con la denuncia vai alla motorizzazione e ti rilasciano un duplicato, quello più che mezzo ai piedi. No, io a me mi scala la patente il 20 novembre. Ho già telefonato stamattina e mi ha detto che non c'è nessun problema, se voglio andare a farla va bene, se no posso rimanere così fino al 31 di dicembre. Ho detto ma che mi va se va, ho detto di telefonare per l'appuntamento, adesso prenderò l'appuntamento, vado e me la faccio di nuovo. Io già lo so, perché il problema lo sai cos'è, che poi al 31-12 ce ne saranno 2000 persone, infatti meglio farla prima. E dove la stai facendo la visita? Io vado sempre da una vita in via dei Mille, all'autoscuola che c'è via dei Mille. No, se no ti mandavo da un amico, qua vicino tra l'altro. No, vicino, ma questi mi conoscono. Vicino a noi, vicino qua, dove sei tu? E io ero vicino del fuoco, giù, lì, l'autoscuola di giù. Ah, sì, ho capito. No, già ho capito chi è. No, vabbè, grazie. Vado lì che c'è il medico che conosco, c'è tutto lo staff che mi conosce, è una vita che vado lì. L'ho sempre rinnovata lì, l'ho presa lì, capito? Sì, assolutamente no, se c'hai il coso vai sempre lì, no, io vado per comodità di lì al coso, perché c'è il medico, una tratta anche amico, ci conosciamo, non c'è problema, qualche amico che è in fretta lo mandavo di lì, se no l'ultima volta l'ho fatta a Rizzetto, nel 2023 se devo volare devo fare patente nautica e patente della macchina. Ah, bene, no, io ho la patente della macchina e basta, ma che ore sono? Le 19, le 8 meno 4, aspetta se vuoi riuscire il piano con la pipì. Ehi, io sono qua, intanto faccio una chiamata sul 10, attenzione 10 che vuole entrare, chi è avanti? Avanti che vuole entrare qua sul 10? Attenzione 10, chi sei avanti? O non stai uscendo dalle radio, se no entra se vuoi entrare. Chi sei Gianni? Perché stai uscendo così male già? Sei Gianni 9 più 10, la radio è chiara però è molto cupa e bassa. Ma pulito stai uscendo, liscio? Allora il segnale è buono, 9 10 è buono, considerando che sei a muro. Quella che c'aveva ieri Claudio, una bomba, usciva pulita, forte, chiara, è molto chiusa, ricca di bassi, ti mancano tutte le tonalità dai medi in su. È comprensibilissima, non c'è problema, però è come che stai parlando attaccata alla bocca, non c'hai acuti. Ma non è che c'è il microfono invece, prima di toccare, fai la prova con un altro microfono, che molte volte quando sono microfoni vecchi, le capsule tendono a incollarsi, non hanno prestazioni, cioè non vibrano come... Tu fai conto che il microfono è un altoparlante al contrario, la stessa cosa. Che radio è questa? Ma è transistor? Secondo me prova qualche microfono, magari, solo per togliere il dubbio prima di toccare qualche trimerino che magari non ha niente la radio, prova il microfono, cambiano, non ascolti tu con quella radio, non lo dico come ricezione, la radio è chiara mi senti fruscio o che cosa, quindi in ricezione funziona allora con la radio, se mi ascolti chiaro vuol dire che in ricezione funziona bene, mentre in trasmissione c'è qualcosa da sistemare, non so cosa dirti, però va a vedere, ti ripeto, prova con qualche altro microfono, aspetta c'era anche Claudio torre di controllo, vediamo se è rientrato, avanti Claudio, se fosse andato a far fare i bisogni al cagnolino. Ok, lasciamo un buchettino di bianco, vediamo un po' se qualcuno vuole entrare, perché ogni tanto sento qualche colpo importante, io, anche molto forte, però non vuole entrare. Avanti, chi vuole entrare su 10? Ehi, vabbè, troppa cosa, le vai a futtidini, tanto sempre la stessa gente che... Giusto per dire che ci sono. Ciao Capri 2, come stai? Tutto bene già, grazie a Dio, tutto sta funzionando perfettamente, dai, non ci possiamo lamentare. Un po' di dolori c'ho in questo periodo, sempre il solito problema della schiena, ma già mi sto muovendo, quindi anche quello è. Però per il resto va tutto bene, là. E Claudio ogni tanto già si fa sentire, già lo ascoltiamo. Stavo dicendo, Robè, il segnale è sempre 9 più 30, non è più 25 adesso con questa radio. No, addirittura qualche peluzzino con i picchi lo superi un po' 9 e 30. Ottimo, là, già va bene, dai, già va bene. Beh, perché la stavo usando con pochi watt, capito, dopo che è stato fatto tutto quell'allineamento, quel filtro eccetera, lo sai da chi? Ho detto di tenerla un po' a regime basso, adesso invece le sto dando un po' più di gas, adesso le sto dando 30 watt, prima ne eravamo 10, 15, adesso ne sto dando 30, 50 modulati, deve trasmettere così questa. Molto bene, quindi stai sempre riparando radio, Gianni? Sì, sempre pure i marchingegni. No, sono contento, almeno se c'è gente appassionata che si diverte, le rimette in moto queste vecchie radio, lì che si fa per dire, perché sono sempre belle, a me piacciono sempre queste, le vintage. Sei appassionato, per cui tanto di cappello. E Claudio, tuo figlio che fa? Che la pagappa, salutalo. Ehi, va bene, ma no, è piano piano, già sei dove mettere le mani, dai. Piano piano magari qualche condensatore da cambiare, qualche trimmerino, qualche resistenza variabile da regolare, piano piano, te la fa un segnale il tuo, il segnale è 9,15 più alto di quello di Roberto, perché stai usando pochi watt, però la radio è leggermente strozzata, secondo me, dovresti cercare quella resistenza variabile che magari apre un pochino la modulazione, perché in linea di massima sta andando benissimo già, e piano piano già riesce a metterlo a posto. E tu, Robert, non ho sentito nessuno stasera, dove in giro? Questa settimana è stata molto ma molto critica, nel senso avevamo accelerato al massimo per fare le consegne, perché se no non riuscivamo a finirle, addirittura ne ho ancora, vabbè, quelli sono lavori più grandi, alla fine dell'altra settimana ci ha scombussolato tutto con la situazione di Babbo, perché ci ha fatto saltare 3 giorni di lavoro e lì hai perso tutto l'ordine, la priorità, chi c'era prima, per cui quelli che avevi prenotato la settimana dopo hai dovuto accelerare per cercare di recuperare quelli che c'erano prima. Meno male siamo riusciti a finire tutto, tranne che una, vabbè, che poi metto che viene lunedì o martedì a ritirare. Potevi magari approfittarne e fare la mattinata di sabato, così te l'avresti tolti tutti a metà qui. Vabbè, va bene, dai. Purtroppo devo fare almeno 3 giorni, si è dovuto assentare, quella è la prassi, non è che puoi fare tutto di corsa, ci vuole il tempo anche per fare quelle cose lì, no? Va bene, dai. Ascolta, stavo dicendo, ma partite ci sono stasera, no? C'è Genova-Torino. Ah, Genova-Torino, no, non mi interessa, non so qua se gioca la Juve, se gioca domani o se gioca domenica, forse gioca domenica. Te lo dico con esagerezza, a me sembra che giochi domenica. L'Inter gioca la Camerino per meno un quarto con la Juve, poi c'è Roma-Napoli, ma credo siano tutti e due domenica, alle 6 però Roma-Napoli. Roma-Napoli alle 6, la Juve è 9 meno un quarto, non è vero che è a Milano, mamma mia. Inter, Juventus, tosta, eh. Cacca, alle 6 deve essere iniziata la partita, perché alle 6 e mezza è iniziata il Torino, sta vincendo 2-0, Sanabria e Poclega ha segnato, pensavo fosse 9 meno un quarto, invece alle 6 e mezza, sono al 66esimo, invece a vedere le altre partite che hanno usato. Ah, poi c'è Sampdoria Spezia alle 20:45, poi c'è Salernitana Empoli domani alle 15, e poi cosa avrebbe? Vabbè, io mi guardo le superiori, dai. Posso guardare il Napoli prima, Roma-Napoli e poi questa domenica, e poi mi guardo la Juve, Inter-Juventus, vinca sempre il migliore, bisogna che ti dica. Sabato, domani alle 9:15 c'è Bologna-Milan, e poi che c'è, vabbè, altre sono partite, non valgono niente, il Cagliari gioca alle 15 con la Fiorentina, Roma-Napoli domenica 24 alle 18, e Inter-Juve domenica 24 alle 20:45. Quindi va bene. Gappa, ottimo per la truppa. E allora già, trovate questa resistenza variabile. Niente, va bene, beh. Oh, mi sono messo oggi tramite un amico a caccia di un 60, non c'è niente da fare, non ce n'è. Mi ha mandato la foto di uno, tutto binghinoso, con il down e up, tutto scolorito, tutto molto male, che sono 90 euro. Ho venduto io a 70 euro dentro la scatola, ma come si fa, cazzo? Stai parlando di Luca, tu, perché proprio poco fa ho letto, cercasi il MC 60, Luca, Sì, vabbè, non volevo dirlo, comunque l'hai detto, sì. Ho incaricato lui a cercarmelo, ma già ne ha trovato, ma cazzo fanno schifo. Già lo sappiamo chi ce l'ha, però va bene. Ehi, vabbè, quello dipende da te. Quello dipende da te, carissimo, capito? Vabbè, comunque ci vedrà. No, io nuovo non lo prendo perché, però se lo trovo usato lo compro. Cioè ne avevo 4 nei 60, figurati 4 ne avevo. Quando ho venduto tutte le radio che non mi servivano, che me ne volevo disfare, ho dato anche i microfoni, cazzo, ma potevo tenere uno. Adesso ho i 2K e lo Yaesio, e mi manca un microfono, quindi ho dovuto abbinare il più 5 che ha fatto Fabrizio, è stato Gamewood naturalmente, connessione Gamewood, cavo diretto, alimentazione diretta dalla radio, esce bene, non è che esce bene, però mi piace il suo microfono. Alla fine poi mi toccherà comprarlo nuovo, affanculo. Yeah, si trova, però bisogna trovare un prezzo ragionevole, no? C'è gente esagerata, io ho visto prezzi fuori mercato, anche a 180 euro, un nuovo messo bene, ma non puoi dare 180 euro per un microfono, secondo me, anche se è un bel microfono. Diciamo sui 70-80 euro quando è messo bene glieli puoi dare. Poi c'è gente che spara cifre assurde. No, no, ma dimmi una cosa, che non ho visto la posizione tua, ma tutte le radio sono nello stesso tavolo? Sì, stessa base, stessa scrivania, stessa base, non è una scrivania, la base che ha fatto Giulio, però sto usando la piccola, la grande non la uso perché prima c'erano molte più radio e quindi adesso ho messo quella più piccola che è con il piano, sempre fatto da Giulio. C'ho sopra nel piano di sopra c'è il Galaxy, lo Standard, lo Yaesio, e sotto c'è tutta la linea, è praticamente una linea completa e l'altra mezza del capola. Ma cosa ti aveva dato, un tavolino, una scrivania, qualcosa ti avevo pure dato, o sbaglio? Sì, quella ce l'ho a casa in mansarda ancora, l'ho portata qua perché non so dove metterla, ma comunque a casa. No, per capire se avevi utilizzato quella o l'altra. Anche a Gianni Capri, anche a te ne avevo dato uno di quei mobiletti, no? Sì, Gianni lascerò fare, sta cercando, sì, l'hai dato anche a lui, però a me era una scrivania proprio da computer, capito? Quella sua invece era diversa. No, io ho utilizzato questa perché è più grande e poi c'è la base sopraelevata, diciamo, che aveva fatto Giulio per mettere sia le radio sotto che sopra, capito? Già va bene, no, c'ho tutto, va bene, no, non mi manca niente, solo che è un po' più in miniatura, capito? Considera che avevo solo 12 base vintage di là, quindi mi serviva più spazio, avevo due basi complete, poi c'erano le basi Kenwood, tutti gli HF, le V, le U basi, adesso invece due U base ne ho una solo, e la tengo da parte, però tutto il resto già in ordine, ho messo tutto a posto, ma intanto va bene, no? Non entro molto, io stasera mi sto trattenendo un attimino, giusto perché stavo facendo le prove con Fabrizio, altrimenti non mi interessa. Questa pompa, questa va bene alla radio, Certo, questa è la più bella che c'hai in assoluto, proprio come cacciamo, è bella, potente, senza distorsione. Ah, questa è una cannonata. Questo 430 è una cannonata, veramente, non lo tengo, vita natural durante, anche l'altra è nuova, lì ci manca solo quello che tu sai, quel filtrino, basta, però è eccezionale, c'è una bellissima ricezione, la uso tantissimo in ascolto, in banda laterale, in HF, ma a volte anche quando ci siete voi la metto in QRX sul canale 10 quando state parlando, è una bellissima ricezione, nuova, è più nuova di questa, è stata ben ripristinata tutta, però è più nuova di questa, come la mia originale, però abbastanza presentabile, diciamo, dai. Adesso ho dato un pochino più di gas, ho visto che già viaggia la grande, non c'è problema. Adesso con tutti questi microfoni mi avete rotto le scatole. Qui Natalino per il Vella. Claudio Spalliero, poco umane. Poco umane. Ehi, Natalino, prima va via un bel goccio, ma non venuta, ma basta, una radio giusto per fare due chiacchiere. Siamo degli allucci. Le memorie di Claudio le ho tenute io, ho tutte le immagini, le fotografie di Virgolo. Sì. E lì non ero manco un radioamatore, minchia mia operazione. Ah, non è il radioamatore ancora. C'avevo più roba da pirata che adesso. Cosa c'avevi un lineare grosso? Cos'era? Della Chemus? Che cos'era quel lineare? Il TL922. Che cosa delle grazie? Ero già Natalino. Mia pirata, mamma mia, come so. Sì, quella al TL922, l'avevo comprato a Mario Nottari. Mi ha costato una cifra, avevo bisticciato, anche come moglie avevo bisticciato. Mi è basinata di luce che madre mia, Sant'Antonio mio. Mamma mia, come so. Ciao Natale comunque, non ti ho salutato. Ehi, lo sai. E chi tu che la via sei? Di gaffa. Chi si assegna la luce di mesi? Quando era pronto, no? Tu puoi a casa e si assegna la luce di mesi, allora puoi andare. Dici che sono andato a carbonazzo in quegli anni, Roberto, non ti dico i casini che ho combinato con quel microfono. Allucinante, cazzo. Sì, il casino l'ho combinato. Quando mi ricordo lì. E Antonio, cazzo, ogni tanto ci sentiamo su WhatsApp. Me la metta sempre, cazzo, una salina. A metà di Marico, un baracchino, tre abilingo, me devo chiamare. È venuto a prendermi il tassista, Antonio Reveni. È venuto a prendermi, cazzo. E ho detto, tanto avvisami quando sei sotto, così scendo. E mi ha avvisato, oh, mi sono Yoshu, fara. E io non mi sono accorto, c'era l'amplificatore acceso, ho schiacciato, era proprio sotto il portone, ho schiacciato, ho detto sto arrivando, proprio così, e ho spento tutto, ho abbassato la tensione, ho spento tutto, varo, e non vira. Anto, dove sì? E era sotto la sedile, sotto, perché c'aveva il cruscottino, e la radio ce l'aveva lì, un fiaco di bruciato. Anto, ma c'è lì, sto scendendo, mi sei trovato il baracchino, ha fatto un fumo. Ecco, mi ha funzionato il baracchino. Ciao Natalina, non ti ho salutato prima. Ciao, neanche io, dai, siamo maleducati. Ciao Claudia, ciao Roberto. Breccia era, visto, ho fatto la battutina, no? Perché Natalino non era un pirata di quelli del coso dei pirati, come si chiama? E come si chiama quell'attore? Va a far Napoli, non mi viene il nome. Natalino, Natalino era un piratone come me. Aspetta, ma guardando se si è acceso la ventola. Sì, sì, già funziona la ventolina. Come si chiama quello dell'attore dei pirati dei Caraibi? Non me lo ricordo, non me lo ricordo. Tempi si poteva fare, se lo facevi con criterio e con la testa a posto si poteva fare, vabbè, perché l'importante era non andare a rompere le palle a nessuno, però ne avevamo di attrezzatura, capito? È che poi io c'era un periodo che proprio il primo periodo che sono arrivato a Carbonazzi, avevo messo l'antenna ed eravamo con luce di cantiere, ancora tutti, non c'era niente, eccetera. L'impianto TV era fatto un po' a culo di scimmia e disturbavo qualche TV nel mio palazzo. Capite? Mi avevo mandato l'escoradio. Quando era aiuto si è assoltato. Mi ha detto, ma lei è sicuro di. È sicuro. Questa è la mia attrezzatura, allora faccio una cosa, noi non abbiamo visto niente, torniamo a ottobre, vado a dare la patente, io sono andato e mi ho preso la patente, proprio per la detenzione, poi il resto non me ne fregava un cazzo. No, io pensavo che era già la tua stazione nei tempi buoni, quando eri già radioamatore, dico quando eri attivo. No, le fotocchiaie e tutto la CB, le ho avute tutte, le emissioni radio che io le fotografavo e poi facevo stampare il rullino, allora c'erano le foto al rullino. E mi avevo fatto dei quadretti giusto per avere un qualcosa, ma di tutto, cioè mi sono lineato la 40 completa, i miei 101, 102, di tutto. 430, 450, 130, 120, 830, i sugar sulle radio che c'era. E vabbè, bei tempi, dai, adesso già va bene. Ah, ma la cosa bella è che c'avevi più radio quando eri pirata di quando eri radioamatore. Sì, se ti metti a guardare bene, sì. All'incirca sì, non negli ultimi anni, proprio sto parlando di 3-4 anni fa, allora no, perché avevo un sacco di radio HF, ne avevo 3 o 4 grandi, eccetera, insomma un sacco di attrezzatura. Ma se parliamo degli anni prima, sì, i primi anni che io sono diventato radioamatore avevo molto più attrezzatura, tanto è vero, io quando sono diventato radioamatore, il volo più zero, non ho fatto altro che entrare nella banda amatoriale e fare questo, io perché ero pronto, avevo le antenne sul tetto, avevo le radio, avevo tutto, capito? Però ci devo prima di avere la patente. E lineare quello grosso, che modo te l'avevi dato? Quello l'ho venduto in continente, l'avevo pagato da Mario Nottari in lire, 3.800.000 lire, in lire, e l'avevo venduto in euro, 2.000 euro, ma l'ho venduto nel 2021, l'ho venduto nel 2015 o 2016. 2.000 euro l'hai venduto, così era? Sì, 2.000 euro l'ho venduto, 2.000 euro compreso il trasporto, solo il trasporto mi è costato 70 euro, perché pesa più di 20 kg. No, quello è un grandissimo apparato, ma grande, non detto da me, detto da Daniele Frignani che costruisce, e lui l'ha provato, ha detto questo è un grande apparecchio, perché lui vede tutti i colori, li ripara, ha detto questo della Kenwood è eccezionale, all'epoca era un punto di riferimento. No, una bestia di cosa, di apparecchio quello lì. E con 3.500, 3 milioni e mezzo no, ti comprava una macchina quell'epoca. Infatti Mario Nottari era poco contento, sì. C'era poco contento, io avevo prenduto da lui il lineare, il 430, l'MC60, avevo quasi tutta la linea completa, poi è uscito il 440, avevo preso la linea completa il 440, tutte da lui le prendevo, fino a quando ha chiuso io mi servivo da lui, capite? Avevamo una grande amicizia, siamo visti anche da poco, sempre più cieco, diventando, porca miseria, ci vuole un cacchio proprio. Quello l'ha portato a non fare più riparazioni eccetera, però tecnicamente è molto molto preparato, soprattutto negli impianti hi-fi, ma anche in elettronica è molto preparato. Sì, l'ho detto da gente competente, mi ha detto che è un mostro, soprattutto su amplificazioni hi-fi e cose del genere, è bravissimo, poi anche naturalmente se sai fare. Ma lui di mestiere cosa faceva lui? Faceva negozio più assieme, erano in società con, non mi ricordo come si chiamava il suo socio, facevano impianti di discoteche. No, socio era Carlo Meloni, l'ingegner Meloni, no, ma lui di lavoro vero e proprio cos'era? Ingegnere elettronico, cos'era? Era radiotecnico, cosa faceva? Questa bravura chi gliel'ha insegnata? Era finito elettrotecnico, sì, ingegner Meloni era il suo braccio destro, bravissimo anche quello, lui è perito elettrotecnico, penso abbia fatto le industriali. Poi ingegner Meloni, il campo di hi-fi all'epoca era numero uno, non c'era per nessuno, infatti se vola a parte prendevano cose assolutamente di grandissimo livello, e poi era una persona molto ma molto competente di tecnica, parliamo di, se doveva darti qualche informazione tecnica, era veramente bravo. E Mario Nottari lo conosco di nome perché riparava gli apparecchi, però non è che lo conosco nel senso che mi abbia mai riparato qualcosa. Ad ingegner Meloni ho comprato delle cose da lui, perché lui vendeva un sacco di apparecchi di qualità, ottimi prodotti, era forse l'unico che c'era prodotti di altissimo livello, poi c'erano anche altri, ma lui vendeva cose di grande greggio. Ok, vediamo se è andata avanti, facciamo vedere se avanti se c'è Capri, Gianni Capri, se c'è ancora avanti Muros. Allora la radio adesso ha migliorato tantissimo, Gianni, però ci si è abbassato il segnale da 9.10 abbondante, si è sceso a 9 un peluzzino di più, fa una sale di segnale ma la voce la spurti. No, già rimettilo come era, andavi benissimo, lasciala così. Oh Claudio, devo staccare, magari ci sentiamo più tardi che mi hanno chiamato. Dai, saluto a tutti da parte mia, ciao. Ehi, Roberto ha chiuso già che l'hanno chiamato urgentemente. No, beh, io conosco molto bene Mario perché eravamo amici, sono tanto non lo vedo, ma l'ho visto quest'estate. Ingegner Meloni no, Ingegner Meloni non l'ho più visto, e a Giorgio neanche, la verità, non l'ho più visto. Però Mario, vabbè, riparazione non faceva, riparazione faceva a Giorgio. Sì, qua c'è lei Gianni, anch'io ti lascio, vado a cenare, dai. E un abbraccio, saluto a tutti a casa e già ci aggiorniamo. Già ci aggiorniamo. Ciao, grazie delle due chiacchiere, ciao anche a Roberto e chiunque fosse in ascolto su 10. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao Cla, salutami a Gianni che non lo sento io. Ciao, ciao Natalino. Gianni ti saluta Natalino Alfa 1, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.